Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Questo momento, diciamo, di crisi economica, sicuramente i fondi, che già per la ricerca sono molto pochi, scarseggiano ancora di più e quindi c'è ancora maggiore necessità di sensibilizzazione e di attenzione rispetto a questi temi, insomma, che poi riguardano ovviamente la solidarietà verso gli altri e quelli che, insomma, vengono colpiti da malattie rare, perché appunto Telethon si occupa di malattie rare verso le quali normalmente la scienza non destina molti fondi. È importante ovviamente andare avanti, anche perché per piccole, insomma, per malattie molto rare si riesce poi a passare questa conoscenza, queste scoperte anche a malattie più importanti. Neri Marco Re parla di Telethon. La parola è la contrazione di Television Marathon e nell'uso comune indica una trasmissione TV della durata di ore o perfino di giorni che ha lo scopo di raccogliere donazioni. C'è in Italia, ma anche in diversi altri paesi d'Europa e del mondo, e al suo interno si può avere qualsiasi cosa. Stacchi di varietà, cantanti, musicisti, attori comici, artisti e ospiti di ogni provenienza. Il tutto inframmezzato dalle richieste di donazioni e dagli approfondimenti giornalistici, soprattutto sui destinatari finali di queste donazioni. Il Telethon di maggiore successo, relativamente ai fondi raccolti, è la trasmissione di 25 ore nell'Australia occidentale a favore dell'ospedale Princess Margaret Children di Perth. Il primo, però, risale al 1966, quando in America un grande attore sulla cresta dell'onda si inventa questa maratona per aiutare la lotta alla distrofia muscolare. Il Labor Day Telethon dura 19 ore e viene mandato in onda dall'Americana Hotel di New York, che oggi è diventato lo Sheraton. Nel corso del programma i soldi raccolti crescono in modo incessante, tanto che alla fine il conduttore deve aggiungere a mano un 1 davanti al tabellone, che forse per scaramanzia era stato previsto soltanto a 6 cifre. Si supera il milione di dollari e l'anno dopo si va oltre il 1.100.000. L'idea per la buona causa è così riuscita che il suo ideatore, nel 1977, viene inserito tra i candidati al premio Nobel per la pace. Ho cominciato 42 anni fa ad aiutare i bambini. Non c'è niente di più importante. Quando ho ricevuto la nomina per il premio Nobel nel 1977, è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Non l'ho vinto, non l'ho ottenuto, ma è stato molto importante avere la nomina. Io ho ricevuto la nomina per aver aiutato i bambini, ma il premio non lo danno a chi fa il buffone. Una vita passata a far ridere tra teatro, cinema e televisione. Di lui il regista Jean-Luc Godard ha detto che è stato più innovativo di Charlie Chaplin e di Buster Keaton. Leone d'oro alla carriera, 6 figli, 4 bypass, una quarantina di film. È il grande mattatore Jerry Lewis. Jerry Lewis. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la sua storia, che non sarebbe stata la stessa senza l'incontro con il più grande portavoce dell'arte di arrangiarsi nello showbiz, la simpatica canaglia italo-americana Dean Martin. Dean Martin. Il dottore mi ha detto di smettere di bere, così ho deciso di non bere più whisky. Lo faccio congelare e lo succhio come un lecca-lecca. When the stars make you drool, just like a pasta fazzola, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. È il 16 marzo 1926 a Newark, New Jersey, quando Jerry Lewis, all'anagrafe Joseph Jerome Levitch, viene alla luce con il sorriso già stampato sulla faccia. La sua famiglia, di origini ebraiche, gli fa respirare da subito l'aria dello spettacolo. Sua madre, Ray, è una brava pianista, mentre suo padre, Daniel, un cantante e attore di vaudeville, un genere teatrale molto in voga all'inizio del Novecento, che comincia come una specie di commedia leggera, in cui alla prosa vengono alternate strofe cantate su arie conosciute e che poi diventa col passare degli anni una vera e propria forma di varietà. Se c'è una cosa che proprio Jerry non sopporta è la scuola. Studia pochissimo, si annoia e per sopportare le lezioni improvvisa spesso imitazioni dei compagni e degli insegnanti. A nulla possono le raccomandazioni dei genitori. Preferisce di gran lunga seguirli in tournée che passare i suoi pomeriggi con la testa china sui libri. D'altra parte, abituato da sempre a girare i teatri di provincia, esordisce in un coro quando ha soltanto 7 anni, capendo quando i suoi coetanei pensano ai giochi che il palcoscenico è il suo destino. Ho sempre adorato la magia del teatro. Il rumore del legno quando cammini sul palco, l'odore del sipario, l'agitazione dietro le quinte quando chi sta per andare in scena si toglie l'accappatoio e si dà l'ultima sistemata davanti allo specchio, per controllare che trucco e capelli siano a posto. La mia non è semplicemente una passione, è un attaccamento viscerale. L'episodio che segna definitivamente l'allontanamento di Jerry Lewis dalla scuola avviene quando ha 13 anni. Durante la lezione di scienze che si tiene nell'aula di chimica, lui, irriverente e indisciplinato, si è dato come unico scopo quello di far ridere i suoi compagni. La situazione gli sfugge di mano quando, mettendo un ingrediente sbagliato in un esperimento, causa un'esplosione che sulle prime fa urlare tutti per lo spavento. Neanche a dirlo, il professore lo sgrida in modo furioso, minacciando di portarlo dal preside e di chiamare i suoi genitori. Per Lewis non è un grave problema, è abituato alle strigliate. Anche stavolta, come le altre, se la caverà. Ecco perché un po' provocatoriamente fa spallucce. A questo punto il professore esplode di rabbia, ma anziché prendersela con il suo studente, lancia insulti razzisti nei confronti di tutti gli ebrei. Jerry non si controlla, gli tira un deciso pugno in faccia tra le facce sgomente degli amici, che si schierano dalla sua parte. Mi sgridavano continuamente. Ero un monello, facevo disastri a casa e a scuola. Ma la mia famiglia è ebrea, conoscevo la nostra storia di perseguitati e non potevo accettare che qualcuno dicesse ancora cose brutte contro di noi. Sono sempre stato fiero di quel pugno. Una volta espulso da scuola, a Jerry Lewis non resta che andare a lavorare. Siamo nel 1939 e in Europa la Seconda Guerra Mondiale è già scoppiata, provocando morti e distruzione. In un'America che non si è ancora ripresa del tutto dalla crisi economica, il sentimento isolazionista si è invece ridotto, tanto che in pochi mesi, dopo l'inatteso attacco giapponese a Pearl Harbor, anche da qui partono i soldati per andare a combattere le potenze dell'asse. Jerry è troppo giovane per il fronte e suo padre, che nel frattempo ha trovato una sistemazione stabile come impiegato presso un rinomato hotel gestito da ebrei, lo fa assumere come facchino. Tutto è meglio della scuola, perfino lavorare, pensa il ragazzo al suo primo giorno. L'ambiente è raffinato, i clienti non sempre gentili ma senza dubbio interessanti per chi come lui sa ridere su qualsiasi cosa, e il suo collega Irving Kay, un uomo di mezza età che si diletta a fare il comico, è il massimo che potesse sperare. Divertente, disponibile, solare, Irving si appassiona alle gag che Lewis improvvisa fino a diventarne un vero e proprio ammiratore. E lui, sicuro del talento dell'amico, a convincerlo che deve tentare il grande salto e incominciare una carriera nel mondo dello spettacolo. Questo scatena le ire del signor Levitch, il padre di Jerry. Lui sa cosa significa fare l'attore e il cantante, ci ha provato per una vita e adesso si ritrova fallito, incastrato in un lavoro che non è il suo. Dal momento che non vuole che la stessa sorte tocchi a suo figlio, fa una scenata a Irving. Un giorno mio padre ha chiamato Irving nel suo ufficio e gli ha detto che doveva smetterla di spingermi a recitare perché è una vita difficile e io avrei fatto meglio a continuare a lavorare nell'hotel. Lo capisco, voleva proteggermi, ma né io né Irving avevamo intenzione di mollare. Jerry Lewis, per essere più indipendente, lascia il lavoro all'hotel e per mantenersi fa di tutto: commesso, magazziniere in una fabbrica di cappelli e finalmente maschera in un cinema teatro di Brooklyn. È la strategia che ha attuato con il suo amico Irving. È sufficiente mettere piede in qualche locale giusto per avere l'occasione di far vedere qualche sketch. In poche settimane la sua determinazione è premiata. L'impresario che dirige il teatro gli concede di intrattenere il pubblico durante gli intervalli degli spettacoli. Jerry non può desiderare di più. Mette cuore e anima in brevi sketch in cui imita le movenze dei cantanti famosi. Il risultato è esilarante. E quello che dovrebbe essere un modo per riempire i buchi di scena diventa invece una grande attrazione per gli spettatori che attendono con ansia la sua uscita per premiarlo con lunghe risate e grandi applausi. Ecco perché una volta maggiorenne, quando riceve la lettera che lo intima a partire per l'Europa insieme ai soldati americani, l'impresario ha paura di perderlo. Ricordo che mi aveva convocato nel suo ufficio per parlarmi. Mi ha detto che credeva in me, che era arrivato il momento di salire davvero sul palco come un artista e che questa lettera proprio non ci voleva. Io naturalmente ero più arrabbiato di lui, non volevo partire perché finalmente la mia vita stava cominciando ad andare nella direzione che avevo sperato. Timpano perforato per colpa di un'otite. Questo è ciò che sta scritto sul documento che attesta l'esenzione dal servizio militare di Jerry Lewis. Mai avrebbe pensato, mentre soffriva il mal d'orecchie e cercava ristoro tamponandosi per ore con un panno bagnato, che quel dolore era mandato dal destino. Siamo nel 1944 e mentre in Europa la guerra continua, Jerry Lewis debutta nella sua prima tournée, che tocca varie città degli Stati Uniti e del Canada. Quando ritorna al cinema teatro dove ha esordito, supera se stesso e si merita la definizione che gli dà un giornalista presente in sala. Il giovane Jerry Lewis è una fantastica scoperta. Fa ridere fino alle lacrime, è senza dubbio destinato a diventare uno dei più brillanti mattatori comici del nostro tempo. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. Mimica straordinaria, espressività fuori dal comune e vis comica insuperabile. Questo e molto altro è il giovane Jerry Lewis, approdato nel mondo dello spettacolo con la sicurezza di chi sa di avere talento. Eppure non gli manca affatto l'umiltà. Ecco perché, dopo anni di improvvisazioni nei quali ha semplicemente scelto di assecondare la sua natura giocosa, capisce che è importante anche lo studio. Non la scuola tradizionale, che non gli è mai piaciuta, ma quella di mimo, che lo aiuta a perfezionare i movimenti e imitazioni dei personaggi celebri che esegue su base musicale registrata. Se il pubblico non si contiene di fronte ai suoi sketch, una ragazza in prima fila una sera non può ignorare il suo fascino. Si chiama Esther Calonico, ma siccome fa la cantante, ha trovato un nome più adatto alle scene, Patti Palmer. Dal palco Jerry ha occhi solo per lei. Sembra che tutte le gag siano destinate a quella donna che ride mettendosi una mano davanti alla bocca quasi per pudore. La prima volta che ho visto Patti, l'ho sempre chiamata così anch'io, me ne sono innamorato. È stato un vero colpo di fulmine reciproco, perché dopo lo spettacolo lei è venuta da me, abbiamo cominciato a parlare e 2 mesi dopo eravamo già marito e moglie. Quando un artista è sempre in giro, ha amici in ogni città. Gli basta passare una sera in un luogo per trovare qualcuno con cui cenare o bere un bicchiere di vino. L'incontro con Patti per Jerry Lewis è qualcosa di più. Un amore che sfocia in un matrimonio dal quale nascono ben 6 figli. Questo legame finisce quando i due divorziano, dopo 36 anni insieme, nel 1980. Ma era scritto nel destino proprio come un altro nella vita di Jerry Lewis. È quello con il grande Dean Martin. Non è ancora il momento, però, di scoprire com'è andata. Prima dobbiamo conoscere il nostro secondo protagonista. All'inizio di giugno del 1917 non c'è ancora un caldo estivo e la mamma di Dino Paul Crocetti, questo il vero nome di Dean Martin, dopo aver partorito è costretta a mettersi anche durante il giorno un pesante scialle di lana sulle spalle. Siamo a Steubenville, capoluogo della contea di Jefferson, stato dell'Ohio. Gli abitanti non arrivano a 15.000 e si conoscono praticamente tutti. È bello, ama ricordare Martin uscire di casa, certi di incontrare qualcuno con cui chiacchierare. Fin da bambino mi è sempre piaciuto parlare. Mia madre mi diceva, per prendermi in giro, che dal giorno in cui ho imparato non ho più smesso. Usavo un inglese stentato, ma parlavo con persone di ogni età. Ho sempre pensato che presentarsi agli altri con un sorriso sia il modo per far funzionare i rapporti e, in un certo senso, la chiave della felicità. La famiglia Crocetti è originaria di Montesilvano in Abruzzo ed è emigrata in America in cerca di fortuna i primi anni del Novecento. Dati alla mano, se nel 1880 erano partiti verso l'Europa e il Nord America 130.000 italiani, nel 1901 si parla di 540.000 e di ben 872.000 nel 1913. Spinti dalla fame, gli emigranti erano disposti a tutto pur di ricominciare una nuova vita in quello che, per citare il film di Emanuele Crialese, è il nuovo mondo. Signor Mancuso, suo figlio è muto e non può essere ammesso. Sua madre è debole di mente, non può essere ammessa. Voi cosa intendete fare? Continuare con le pratiche d'ingresso negli Stati Uniti o rimpatriare? Ma... Voscenza, ma scusate, io non è che ci voglio mancare il rispetto, però non capisco questo discorso. Qual è il problema, cane? Chi fastidio ci dona noi sti qua? Chi fastidio ci dona a mia madre e mio figlio? Con tutta sta terra, con tutto sto travaglio che dice che c'è qua, eh? La comunità italiana all'estero, sempre più folta, nei primi anni del Novecento, cerca di integrarsi, ma rimane strettamente ancorata alla sua origine e i connazionali instaurano tra loro i legami personali, sociali ed economici più forti. Dino Crocetti, abituato a parlare sia in famiglia che fuori in dialetto, nemmeno in italiano, fino a quando ha 5 anni non sa una parola di inglese. Se i suoi genitori lo mandano a scuola è proprio per questo, perché impari una nuova lingua con la quale costruirsi un futuro davvero americano. Lui però, seguendo l'esempio dei ragazzi più grandi del suo quartiere, capisce cos'è la vita sulla strada. Siamo a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30 e in America vige il proibizionismo. Bere alcol è vietato, ma in ogni angolo c'è qualcuno con in mano un sacchetto di carta che nasconde una bottiglia. Il contrabbando ha fatto la fortuna dei malavitosi e mentre impera il puritanesimo, sono in molti quelli che vivono sulla soglia della legalità, dando vita a quell'immaginario che siamo abituati a vedere nei film noir. Gangster, belle donne, sbornie, inseguimenti e notti in bianco. Non si può negare il fascino di questo periodo. Perfino la violenza che si scatena tra i boss ha acquisito nella vasta letteratura sul tema un retrogusto romantico. Gli uomini indossano gilet, bretelle, scarpe bicolore e completi gessati, mentre le donne scelgono abiti sfavillanti, cappellini e labbra rosso fuoco. La colonna sonora è a volte il charleston, a volte lo swing, ma tutto deriva dall'immenso patrimonio del jazz. Dino ascolta e riascolta il suo mito. Bing Crosby. Crosby suonava nell'orchestra di Paul Whiteman ed aveva una voce fantastica, delicata, sussurrata. Ogni volta che sentivo un suo disco provavo una voglia incontenibile di cantare. Dino Crocetti è ancora un italo americano povero che non va a scuola e vive di espedienti, ma presto si chiamerà Dean Martin e grazie all'incontro con Jerry Lewis il suo nome risuonerà nel mondo. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. Destini incrociati. A Destini Incrociati vogliamo raccontarvi la storia della più strabiliante coppia comica del dopoguerra, quella composta da Jerry Lewis e Dean Martin. Il primo, dotato di una espressività unica e di una mimica sopra le righe, è un giovane del New Jersey cresciuto in una famiglia di artisti, mamma pianista e padre attore di vaudeville. Naturale per lui seguirne le orme. A 13 anni viene buttato fuori da scuola per aver dato un pugno a un insegnante colpevole di insulti antisemiti e inizia a lavorare come facchino. Approda infine in un cinema teatro dove fa la maschera, ma ha la possibilità di intrattenere il pubblico durante gli intervalli. È l'inizio della sua gavetta da comico, che lo porta a girare i locali di Stati Uniti e Canada con pochi soldi e tanta fatica. Ero diventato sempre più bravo nel contorcere il mio corpo lungo e ossuto in modi che sapevo avrebbero procurato un effetto comico. Mi esercitavo facendo le smorfie davanti allo specchio fino a quando non scoppiavo a ridere io stesso. Dio non mi aveva fatto bello, ma mi aveva dato qualcosa. L'avevo sempre saputo, il senso dell'umorismo. Dean Martin, invece, all'anagrafe Dino Crocetti, è un italo-americano povero che nasce e cresce in una cittadina dell'Ohio. Va a scuola saltuariamente e fino all'età di 5 anni parla soltanto dialetto. Da ragazzino, in pieno proibizionismo, sembra destinato a un futuro sulla soglia della legalità, trascinato dai giovani connazionali. Infatti, sebbene suo padre cerchi di insegnargli a fare il barbiere per proseguire la sua attività, lui preferisce altro. Fa il trafficante di liquori, il pugile, il benzinaio e perfino il croupier clandestino. Mi piaceva giocare, mi piaceva l'atmosfera dei locali pieni di uomini e di fumo, mi piaceva sentire l'adrenalina. Sentivo che non mi sarei mai accontentato di un lavoro normale, ma quello che più desideravo al mondo era fare il cantante. Il modello a cui si ispira Dino è Bing Crosby, voce baritonale ottenuta almeno in parte dalle numerose varie bevute, fraseggio jazzistico impeccabile e doti comunicative così evidenti da farlo diventare, dopo cantante, anche attore. Ma soprattutto Dino ama di Crosby la capacità di dissimulare ogni traccia di artificiosità. Niente che fa sembra costruito, tutto accade dal canto alla recitazione come la cosa più naturale del mondo. Proprio come Crosby, il futuro Dean Martin vuole diventare un grande crooner. Anche se il più popolare crooner del Novecento è Frank Sinatra, Bing Crosby è senza dubbio uno di quelli che hanno dato il via al genere, sebbene proprio di genere non si possa parlare. Si tratta di uno stile, di una tecnica di canto che si fonde con il jazz e con la musica ballabile. All'inizio c'è una grande orchestra senza archi che accompagna il cantante, ma col tempo diventa sempre di più lui il vero protagonista dello spettacolo. Il crooner interpreta canzoni melodiche in stile confidenziale e può permettersi di sussurrare al pubblico grazie all'avvento del microfono. Prima era necessaria una voce forte che riuscisse ad arrivare fino alle ultime file. Adesso la potenza vocale non serve più. And be better off than you are, or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny but his brain is weak, he's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a pig? Siamo all'inizio degli anni 30, quando Dino Crocetti inizia la sua gavetta come cantante, anzi come crooner per la precisione. Ma prima di presentarsi nel primo locale dove l'hanno chiamato a esibirsi, mette a punto quella che diventerà la sua maschera scenica. Innanzitutto, complessato da sempre per il suo naso, prende tutti i risparmi accumulati in anni di lavori saltuari e più o meno legali e li investe in un'operazione di chirurgia estetica. Dino, guardandosi per la prima volta allo specchio con il suo nuovo profilo, decide che è arrivato il momento di cambiare anche il suo nome, troppo italiano, ma soprattutto troppo banale. Si ispira allora al tenore Nino Martini e diventa all'inizio Dino Martini. Siccome anche questo non lo convince, pensa che per sfondare nello spettacolo americano serva un nome da americano. Ed è qui che diventa Dean Martin. E per la prima volta nel 1934 sta cantando con un microfono in mano in un locale di New York. Ero così emozionato che mi tremavano le gambe e quando ho cominciato ha iniziato a tremarmi anche la voce. Ma poi ho pensato a Bing Crosby, a quello che mi stava accadendo, alla gente che seduta mi stava ad ascoltare. E ho capito che quella era davvero la mia strada. Quello di New York è il primo di una lunga serie di locali un po' tutti uguali. Piccoli, bassi, con i tavolini ravvicinati, la luce soffusa e una tale quantità di fumo da sembrare quasi nebbia. Gli uomini e le donne siedono in silenzio e ascoltano tenendo il tempo con le mani, con le gambe e muovendo la testa. Non sono presi soltanto dalla musica, ma anche dalle parole. È importante per un bravo crooner coinvolgere il suo pubblico su tutti i fronti. La gavetta di Dean Martin, proprio come quella di Jerry Lewis, è lunghissima e faticosa. Entrambi fanno lunghi spostamenti per non perdere ingaggi, ma riescono a guadagnare pochissimo, soprattutto se proporzionato alle energie che investono. Dean rappresenta il prototipo dell'italo-americano buffo e un po' monello, dotato di quel carisma innato che fa capitolare le donne di ogni età. Non che sia particolarmente virtuoso nell'arte canora, ma ha un'ineguagliabile capacità di arrangiarsi e di sfruttare le situazioni a suo favore. Simpatica canaglia, strafottente ma generoso, menefreghista solo in apparenza, ma di una umanità straordinaria, si sente perfettamente a suo agio sul palco. Ha molto lavoro, ma non riesce a sfondare. All'inizio mi arrabbiavo, mi chiedevo come mai non succedesse niente, come mai nessuno si accorgesse di me. Poi ho incominciato a godermi davvero la mia fortuna. In fondo facevo quello che mi piaceva, ero un uomo fortunato. Proprio quando ho smesso di pensare al successo, il successo è arrivato, perché ho incontrato Jerry. Manhattan, 1945. Anche se tutti e due viaggiano in lungo e in largo per gli Stati Uniti, sia Dean Martin che Jerry Lewis fanno base a New York. In una giornata di sole, Jerry decide di andare a fare una passeggiata con il suo collega Sonny King, che a un certo punto saluta un amico che indossa un elegante cappotto color cammello. Lewis, distinto, impressionato dal fascino dell'uomo, addirittura quasi intimidito dalla sua bellezza, chiede a Sonny chi è. La risposta è Dean Martin. I due iniziano a parlare. È un'empatia iniziale che si trasforma presto in reciproca simpatia. Cominciano a fare qualche spettacolo insieme, nulla di importante, ma il pubblico non smette di ridere un secondo. E quando una sera al Club 500 di Atlantic City manca un attore e Jerry Lewis chiede di farlo sostituire da Dean Martin, in sala c'è il tripudio. Tra i due c'è una chimica perfetta. Da quel momento la coppia Jerry Lewis-Dean Martin non delude mai. Bill Smith, giornalista di Billboard, intuisce il loro successo non appena li vede insieme, tanto che sulla sua rivista fa una recensione entusiasta. Martin e Lewis fanno un dopo spettacolo che ha tutte le carte in regola per essere un numero esilarante. I due interrompono deliberatamente le battute l'uno dell'altro, hanno una mimica facciale straordinaria e creano una baraonda incredibile. Le reazioni a scoppio ritardato, le creazioni estemporanee, la mimica facciale e il modo deliberatamente enfatico di recitare di Lewis sono sensazionali. Le occhiate lente, le improvvisazioni e l'impassibilità fanno di Martin una spalla perfetta. Entrambi ottengono risultati strabilianti, anche quando il pubblico avrebbe bisogno della dinamite per svegliarsi. Finita la Seconda Guerra Mondiale, ovunque c'è voglia di rinascita. E perché questo succeda, servono novità. L'esplosiva coppia comica formata da Dean Martin e Jerry Lewis arriva nel momento giusto. Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds. Away from the maddening crowds, we can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo alla fine degli anni 40 e due mattatori si sono appena incontrati per caso a Manhattan e hanno scoperto che il loro destino è quello di diventare una coppia comica. La guerra è finita e c'è dappertutto voglia di qualcosa di nuovo. I comici che si erano affermati anni prima ormai non riescono più ad avere lo stesso successo. I fratelli Marx girano il loro ultimo film nel 1949. Stanley e Ollio si preparano ad andare in Europa, dove, dopo un lungo periodo fuori dalle scene, realizzano il loro ultimo film, Atollo K. Bob Hope e Bing Crosby stanno per esaurire la serie di film dal titolo Road 2. Il campo è libero per il nuovo esilarante duo formato da Dean Martin e Jerry Lewis. Fascinoso e simpatica canaglia italo-americana Martin, goffo e dalla mimica strepitosa Lewis, i due hanno tutte le carte in regola per sfondare, soprattutto adesso che il pubblico apprezza una comicità più moderna, fatta non più da scenette scritte e costruite, ma da una interazione vera tra i personaggi, al limite dell'improvvisazione. Soprattutto una comicità coinvolgente, dove si veda che gli attori si stanno divertendo almeno tanto quanto il pubblico. E con Jerry e Dean la gente piange e si sdraia sui tavoli dalle risate. Tutto questo gli studios non se lo lasciano certo scappare. E per Lewis il cinema è un sogno che si avvera. Lo Star System era un grosso affare. Gli studios scoprivano un talento e gli impartivano di tutto, dalle lezioni di recitazione a quelle di canto e di piano. Le aspiranti star imparavano a muovere i propri corpi con la grazia richiesta perché venissero esibiti nella vetrina più grossa del mondo. Hollywood ti guardava sempre, attenta a ogni passo, a ogni gesto, a ogni sbaglio. Dean Martin e Jerry Lewis in poco tempo passano dalla gavetta ai teatri pieni, dai teatri pieni alla radio e alla televisione, fino a diventare la coppia più contesa del cinema. Major del calibro della 20th Century Fox, della Columbia e della Warner sono pronti a firmare contratti con cifre da capogiro, di fronte alle quali loro restano increduli dopo anni passati a sbarcare il lunario. Alla fine scelgono di lavorare per la Paramount e nel 1949 esce La mia amica Irma, al quale fa seguito l'anno dopo Irma va a Hollywood. Si tratta della trascrizione cinematografica di scenette che i due hanno già fatto insieme in radio in una serie di puntate. Ma Lewis aggiunge delle gag che entrano nella storia, come il celeberrimo duetto con lo scimpanzé che fuma, beve e gioca a carte. In Il sergente di legno, diretto ancora da Hal Walker e basato su una commedia musicale di James Allardyce, la trama è esilarante. Vic Puccinelli e Alvin Corvin sono due amici che vengono chiamati a svolgere il servizio militare, ma Vic, che ricopre il grado di sergente, decide di sfruttare l'amico di grado inferiore per evitare il più possibile i suoi compiti e dedicarsi a quella che è invece la sua più grande passione, le donne. Non siete ancora sazio? No, non la finisco di bere finché quella non si decide a sorridermi. Voi siete la sola femmina al mondo che non mi ricorda nessun'altra femmina che ho conosciuto. Baritta, quanto pago? $0.50. Grazie, siete stato molto carino. Cosa dicevamo? Vi ho domandato di gorgheggiare una canzone. Che canzone volete? Volete una canzone allegra? Oppure una triste? O preferite una dolce melodiosa ninna nanna, caro? Bello. Scusate. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Italiano, hey, hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. You don't wanna tarantala, hey, hey, mambo. No more mozzarella, hey, mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà and then egumba. Martin e Lewis, come si dice per le storie d'amore, sono due opposti che si attraggono in scena e fuori. Grandi amici nella vita, insieme girano in tutto ben 16 film. Ma la coppia non è solo sul grande schermo. Televisione, radio, decine di incisioni musicali e centinaia di apparizioni teatrali. Jerry Lewis e Dean Martin sono così popolari che la DC Comics, a partire dal 1952, pubblica una seguitissima serie a fumetti dal titolo Le avventure di Dean Martin e Jerry Lewis. Finché nel 1956, esattamente 10 anni dopo il loro debutto, succede quello che nessuno avrebbe mai immaginato. La coppia scoppia. Siamo nel leggendario Copacabana, uno dei locali più famosi di New York. Durante quello che si sarebbe rivelato il loro ultimo show, Jerry Lewis e Dean Martin annunciano a sorpresa la loro separazione. L'America è sconvolta e nulla servono le richieste e le proposte di ingaggio che arrivano da ogni parte. La rottura è ormai definitiva ed è partita dalla frustrazione di Martin, che si è accorto dello sbilanciamento dei ruoli via via sempre più favorevoli al suo collega. Addirittura una volta sulla copertina di Look Magazine era comparsa un'immagine pubblicitaria del duo, ma con la metà in cui dovrebbe comparire Martin tagliata. Se l'imbarazzo di Lewis è stato alto, il dolore di Martin invece è profondissimo e peggiora quando legge un commento di Bosley Crowther del New York Times. Dean Martin è un attore di bella presenza, che canta con una voce abbastanza piacevole, ma è anche l'ennesimo crooner belloccio senza il comico a cui fare da spalla. Da solo il signor Martin è un tizio con scarso senso dell'umorismo e un fascino limitato. Le strade si separano, ma sembra che i due continuino a sfidarsi a distanza. Mentre Jerry Lewis all'inizio resta ingabbiato in pellicole poco significative, Dean Martin ha la sua rivincita grazie ai Giovani Leoni, con cui conquista un'immagine del tutto inedita. Martin continua una brillante carriera televisiva per più di un quarto di secolo. E intanto Lewis, che si dedica alla regia, viene osannato dai Cahiers du Cinéma, che lo definiscono il regista totale. E sviluppa la tecnica del video assist, un metodo per rivedere in tempo reale il girato, usando molti monitor, che sarebbe diventata pratica abituale per tutti i registi dopo di lui. Inventore e conduttore della maratona televisiva di raccolta fondi Teleton, è proprio durante l'edizione del 1976 che ha la sua più grande sorpresa. Senza dirgli nulla, un giovane Frank Sinatra fa salire sul palco Dean Martin. Lewis, visibilmente emozionato. Martin, che non dice una parola. A rompere il ghiaccio è ancora Sinatra, che da grande crooner, tra gli applausi del pubblico, sussurra: «Mi sembrava fosse arrivato il momento, no?» «Ehi amico, il tuo canale destro non funziona. Fa qualcosa.» Ragazzina, piccolina.